la mia stessa via. Perché non è più mia. Intorno i platani si sfogliano col vento. Col vento tornano le nuvole nel cielo. Povero cuore mio, non passa più, perché mi ha detto addio. Non passerà per me.